Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Napolitano sull'inchiesta di Trani, si rispettino tanto le indagini quanto le ispezioni, appello a non drammatizzare i contrasti. Pedofilia, il primate d'Irlanda chiede scusa mentre è in arrivo una lettera del Papa. In Germania la Merkel vuole chiarezza. Per Mario Draghi la ripresa europea è debole ovunque, bisogna impedire che i derivati siano canali di contagio, dice. Ucciso un bambino di 8 mesi a Genova in un raptus, forse provocato dalla cocaina, arrestati la madre e il compagno. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. In apertura dunque le parole del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, sull'inchiesta di Trani. Ce le riferisce insieme alle reazioni in diretta da Montecitorio, Elisabetta Fiorito. Elisabetta. Si tocca di nuovo al capo dello Stato intervenire sull'inchiesta di Trani. Giorgio Napolitano scrive una nota per lanciare un monito nell'ultima settimana di campagna elettorale. È auspicabile, spiega Napolitano, che in un periodo di particolari tensioni politiche si evitino drammatizzazioni e contrapposizioni, come sempre fuorvianti, sul piano istituzionale. Ma è soprattutto sulle indagini che Napolitano concentra la sua attenzione. Vanno rispettati in tutti i casi l'autonomia delle indagini e quella degli interventi ispettivi disposti dal Ministro della Giustizia. In sostanza, al Capo dello Stato non piacciono le critiche del Premier Silvio Berlusconi su una giustizia ad orologeria, ma anche l'apertura del fascicolo da parte del CSM sugli ispettori. Risponde immediatamente il Ministro della Giustizia Angelino Alfano. Meno male che c'è Napolitano, ha confermato ancora una volta il più alto presidio di equilibrio e di buonsenso. E anche la maggioranza concorda con il capo dello Stato, Italo Bocchino del PDL. Sentendo le parole del Presidente della Repubblica, viene da dire meno male che il Napolitano c'è. Il richiamo al CSM affinché non giudichi preventivamente il lavoro del Ministero di Grazia e Giustizia con l'invio degli ispettori a Trani è saggio, è giusto e speriamo che sia ascoltato da tutta quella magistratura che a volte cede. Da parte dell'opposizione Pierluigi Bersani del PD difende il capo dello Stato e accusa il problema sono le parole del Premier, mentre per l'Italia dei Valori Napolitano dà un colpo al cerchio e una alla botte. Massimo Donadi. Parole di equilibrio che il governo dovrebbe fare proprie. Invece abbiamo un governo che non sa assolutamente come affrontare i tanti temi che in questo momento affliggono il Paese a partire dalla crisi e cerca di trasformare questa campagna elettorale in una sorta di guerra civile dai toni sempre più accesi e insostenibili. E per il momento qui da Montecitorio è tutto, voi studio. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito e altri due aggiornamenti strettamente collegati all'inchiesta di Trani su Rai e Authority per le telecomunicazioni. I legali del Premier Nicolò Gadini e Filiberto Palumbo hanno formalmente chiesto alla Procura di Trani di inviare per competenza gli atti relativi alla posizione di Silvio Berlusconi al Tribunale dei Ministri. Lo si è appreso al termine dell'incontro durato circa un'ora e mezza tra i due penalisti e l'intero pool che coordina l'indagine, compreso il procuratore Carlo Maria Capristo. E ancora notizia di poco fa, i consiglieri d'amministrazione della RAI Nino Rizzo Nervo e Giorgio Van Straten, anche in relazione alle intercettazioni emerse dall'inchiesta di Trani, chiedono che il direttore generale della RAI Mauro Masi si dimetta subito. Cambiamo argomento e parliamo degli scandali sulla pedofilia nella Chiesa che hanno investito in particolare l'Irlanda, nelle ultime settimane la Germania. Ci sono su questo fronte degli aggiornamenti, iniziamo proprio dall'Irlanda, ci colleghiamo in diretta con Giorgia Scaturro da Londra. Giorgia, che cosa è successo oggi? Buongiorno, bene, dopo 3 mesi da quando è scoppiato lo scandalo dell'insabbiamento dei casi di pedofilia in Irlanda, oggi il cardinale Sean Brady ha finalmente trovato la voce per chiedere scusa con tutto il suo cuore a tutti coloro che sono rimasti feriti dai suoi comportamenti sbagliati. Guardandomi indietro mi vergogno di non aver sempre sostenuto i valori che professo e in cui credo. Queste sono le parole usate dal numero uno della Chiesa Cattolica Irlandese che ha ammesso di essere stato presente nel 1975 ad una udienza canonica a porte chiuse in cui fu chiesto a 2 bambini vittime di abusi sessuali di firmare sotto giuramento che non avrebbero raccontato le molestie di padre Smith, un sacerdote che ha poi continuato ad abusare di bambini fino al 93 ed è... Ed è caduta la linea, come avete sentito, con la nostra Giorgia Scaturro. Nel frattempo è stata annunciata oggi dal Papa, da Benedetto XVI, una lettera diretta proprio ai fedeli irlandesi e sarà resa pubblica nella giornata di venerdì prossimo, festa di San Giuseppe. Di tutto questo, della pedofilia nella Chiesa, ha parlato in mattinata anche la cancelliera tedesca Angela Merkel. Il cancelliere Angela Merkel ha difeso oggi la Chiesa Cattolica in un momento in cui le autorità religiose sono alle prese con un'ondata di testimonianze riguardanti casi di pedofilia nelle scuole e nei collegi di Germania. In un discorso al Bundestag, la signora Merkel ha parlato di crimine abominabile, ma ha subito precisato: non ha senso puntare il dito su un solo gruppo, anche se i primi casi sono emersi nella Chiesa Cattolica. È un problema che si è ripetuto in numerosi settori della società. Circa 150 persone sono uscite allo scoperto nelle scorse settimane rivelando di essere state vittime di abusi sessuali da parte di preti e religiosi. In Germania la vicenda ha provocato grande emozione e soprattutto un vivo dibattito sull'opportunità o meno di rivedere la norma sul celibato dei preti. Beda Romano, GR24, Il Sole 24 Ore, Francoforte. E andiamo a Genova adesso, dove una coppia è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso un bimbo di 8 mesi, in diretta dal capoluogo ligure, Andrea Ferro. Andrea. Sì, buongiorno da Genova. Nella notte davanti al PM la polizia, Giovanni Rasero, 29 anni, ha accusato l'amante Caterina Matters, di 26, di averla vista sbattere il figlioletto sul pavimento. La donna ha smentito articolando una ricostruzione però molto confusa. Per i poliziotti della squadra mobile però sussistevano gli elementi per arrestare entrambi. Omicidio volontario aggravato è l'accusa contestata. La prima analisi da parte del medico legale aveva evidenziato ferite e lividi non compatibili con una caduta, quindi una disgrazia, e addirittura erano stati rilevati segni di bruciature. Poi c'è la testimonianza di una donna che ha detto di aver visto l'uomo, un broker marittimo, tornare dall'ospedale nel residence di Nervi per poi uscirne con 2 sacchetti, da uno dei quali affiorava una copertina di pile. Per la polizia Rasero avrebbe ripulito l'abitazione per cancellare ogni traccia. I due risultano cocainomani e la polizia ritiene che abbiano consumato droga quando la piccina moriva. L'ora del decesso sarà accertata dall'autopsia, che verrà eseguita domani. Per il momento da Genova è tutto, vi restituisco la linea. Grazie dunque Andrea Ferro. E veniamo all'arresto ieri a Roma del santone della comunità Maiare, accusato di violenza sessuale, truffa e riduzione in schiavitù. Ha riacceso i riflettori sul problema delle sette, che contano 1,5 milioni di vittime in Italia. Per contrastare il fenomeno serve una nuova legge, perché sul tema c'è un vuoto normativo, lo sostiene il criminologo Francesco Bruno. Lo ha intervistato Maria Luisa Pezzali. Noi abbiamo cancellato diversi anni fa la normativa che regolava il plagio. La legge infatti non era fatta bene e destava problemi di costituzionalità. Però il fenomeno esiste, non possiamo chiudere gli occhi. Quindi la stessa Corte Costituzionale non disse fate a meno della legge, ma disse fate una legge diversa che sia compatibile con i nostri principi costituzionali, e sarebbe anche non difficile farla. Però naturalmente ci scontriamo contro resistenze molto forti che appartengono alle stesse sette e anche a tutti coloro che temono che possano essere messi in gioco principi di libertà di religione e così via. Come si dovrebbe intervenire? Bisogna semplicemente dire che alcune tecniche di condizionamento, di manipolazione delle volontà della gente, di coercizione delle volontà della gente, non possono essere usate contro gli interessi legittimi, protetti costituzionalmente delle persone, cioè la libertà di pensiero, la solidarietà con la propria famiglia, e l'aspirazione che ciascuno ha ad avere l'indipendenza economica e così via. Perché queste sette, il loro punto debole è che a un certo momento si approfittano della dipendenza dell'adepto e la usano contro di lui, quindi o per abusarne sessualmente o per togliergli tutto lo stipendio o per farlo lavorare per loro e così via. Perché con una nuova legge si potrebbe intervenire prima, non ad anni ormai fatti, così? Esatto, per esempio noi abbiamo la legge sullo stalking, che è un esempio, un primo esempio di una legge che consente di poter intervenire mentre il fenomeno è in fieri ed è abbastanza efficace. Cambiamo decisamente argomento adesso e parliamo di famiglia con il sondaggio di Radio 24 di oggi. Era dedicato ai rapporti tra genitori e figli in caso di separazione e divorzi. Per lo psichiatra Alessandro Meluzzi, per il bene dei figli è meglio una coppia di genitori litigiosi ma non separati. Vi abbiamo chiesto cosa ne pensate, il 65% di voi si è detto d'accordo. Sulla stessa lunghezza d'onda è il regista Giovanni Veronesi, che in questi giorni è nelle sale con genitori e figli agitare bene prima dell'uso. Sentiamo. Non è tanto sulle leggi che bisogna agire, è sugli individui. Gli individui negli ultimi 20 anni, specialmente la mia generazione, 45-50, sono disastrati. Sono persone che hanno avuto un azzeramento culturale feroce, che hanno avuto un appiattimento dei valori feroce, per cui insegnare ai propri figli resta molto più difficile. Ed ecco anche perché, non a caso, 3 film di 3 autori italiani, Virzì, io e Ferzan Ospetek, anche se tratta il tema dell'omosessualità, comunque sono incentrati sulla famiglia, un nucleo stretto, cioè quello che ti condiziona la vita nel bene e nel male. Bisogna ripartire da lì, perché è da lì che si insegna alle persone ad amarsi davvero tra di loro. E passiamo invece alle sale cinematografiche. Nei cinema in cui si proiettano film in 3D si dovranno adottare occhialini monouso. Questo è il parere del Consiglio Superiore di Sanità dopo la richiesta del Codacons sui rischi legati agli occhiali per la visione dei film in 3 dimensioni. Ma i gestori dei cinema italiani non ci stanno, soprattutto perché questo tipo di occhiali in realtà non esiste più. Paolo Protti, il presidente dell'ANEC, al microfono di Marta Cagnola. Non c'è una informazione corretta, né si è voluto prendere informazione corretta su cosa significa tecnologia 3D. Molto si è basato su quella in vigore il secolo scorso, la tecnologia nel frattempo è cambiata. Invece di usare gli occhiali riciclo, uso gli occhiali monouso, si fa presto, ma sono tecnologie differenti, non compatibili fra loro. In questo momento si rischia la chiusura di moltissimi cinema in Italia, in un momento in cui l'attività cinematografica, grazie anche a questo fenomeno del 3D, aveva avuto un grande successo. Tra l'altro questo successo non è stato prevaricatore della cinematografia, per esempio italiana, è stato anzi da divolano, perché se tutto questo il mercato ha avuto effetti positivi, l'hanno avuto effetti positivi anche fin, diciamo, in pellicola, in 2D normali. Quindi il problema degli occhiali monouso è un falso problema perché non esistono più, bisogna concentrarsi invece sul fatto che debbano essere puliti, disinfettati. I nostri spettatori sono i nostri consumatori, devono essere tutelati, quindi ciò che diamo in mano loro deve essere un prodotto disinfettato, per carità. Questo è un obbligo che è primario nostro. A questo punto ci viene proibita la disinfezione e siamo nell'assurdità più totale. Magari qualcuno può anche dire, ma come siamo sicuri che la fate la disinfezione? Ma noi siamo disponibili a essere controllati, ma invece si preferisce dire la proibizione, così evitiamo il problema del controllo e così si mettono a rischio attività industriali. Le 13:16:37 nella prima parte del giornale radio abbiamo parlato di politica con Napolitano, che interviene sull'inchiesta di Trani e chiede che si rispettino tanto le indagini quanto le ispezioni, e poi lancia un appello a non drammatizzare i contrasti. Abbiamo parlato di pedofilia nella Chiesa perché ci sono degli aggiornamenti. Il primate d'Irlanda chiede scusa, mentre è in arrivo proprio diretta ai fedeli irlandesi una lettera del Papa. Nel frattempo su questo interviene la cancelliera tedesca Angela Merkel, che chiede chiarezza. E poi abbiamo parlato di cronaca con l'uccisione di un bambino di 8 mesi avvenuta a Genova. Sono stati arrestati la madre e il compagno. Adesso ci occupiamo di economia. Innanzitutto con una notizia appena battuta dalle agenzie e che riguarda Unicredit. Dopo il rinvio al 13 aprile del consiglio d'amministrazione che avrebbe dovuto decidere sulla banca unica, si era parlato di contrasti tra l'amministratore delegato Alessandro Profumo e gli azionisti. Ebbene, Alessandro Profumo, durante l'incontro con gli analisti a Londra, dice: non ho mai pensato di dimettermi e non ho nemmeno minacciato di farlo, come invece era filtrato da alcune indiscrezioni di stampa. Nel frattempo il titolo sta andando molto bene in borsa, tutti gli aggiornamenti naturalmente come sempre alle 13:30. E poi ci occupiamo di economia per parlare dell'intervento di Mario Draghi, governatore della Banca d'Italia, davanti al Parlamento europeo a Strasburgo. Che cosa ha detto Draghi? Ce lo riferisce in diretta Vincenzo Miglietta. Vincenzo. A quanto pare è caduta la linea con Vincenzo Miglietta, è una giornata su questo fronte complicata. Passiamo all'estero e iniziamo dalla Nigeria, dove ci sono state nuove violenze. Altre 11 persone sono state uccise nello stato del Plateau. Sarebbero in maggioranza donne e bambini le vittime dell'ultima strage compiuta in un villaggio di contadini cristiani vicino alla città di Jos. Secondo la radio nazionale nigeriana, che riferisce la notizia, gli aggressori sarebbero membri dell'etnia Fulani, tradizionalmente allevatori e musulmani. Gli stessi, quindi, che all'inizio del mese avevano lanciato un feroce attacco notturno contro 3 villaggi a maggioranza cristiana della stessa zona, uccidendo centinaia di persone finite a colpi di macete. Da tempo l'area è presidiata da militari che dovrebbero evitare l'espandersi del conflitto, ma il presidente del consiglio del distretto dice che, nonostante la sua richiesta di intervento, esercito e polizia sono arrivati quando era ormai troppo tardi. Le violenze in questa zona centrale della Nigeria hanno già provocato migliaia di morti e ancor più profughi. Al centro degli scontri non ci sono solo questioni religiose, ma rivendicazioni sociali, economiche, tribali e culturali. Laura Bettini, GR24, Il Sole 24 Ore. E adesso siamo in grado di collegarci dunque con Vincenzo Miglietta per gli aggiornamenti sulle parole del governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi. Vincenzo. Sì, buongiorno. Un intervento, quello del numero uno dell'Istituto di Bene Nazionale in qualità di presidente del Financial Stability Board. La ripresa è disomogenea, debole in Europa, ancora fragile ovunque, ha detto Draghi. Per il governatore di Banca Italia il sistema finanziario tuttavia mostra dei segnali positivi. Quasi tutte le banche sono sulla via di risolvere i problemi di finanziamento, ha spiegato Draghi, ma i loro bilanci sono ancora esposti a elementi di fragilità legate soprattutto allo stato della ripresa economica. I mercati internazionali, poi, le condizioni sono considerevolmente migliorate nel corso degli ultimi 12 mesi, ha aggiunto il governatore. Nonostante ciò, ha proseguito, il sistema ha ancora elementi di debolezza e i rischi, principalmente legati al peggioramento della qualità del credito, sono ancora significativi. Per questo, ha aggiunto Mario Draghi, è essenziale che si possa contare negli anni a venire su una piena ripresa della capacità del settore bancario di svolgere il suo ruolo essenziale nell'economia. Il governatore infine ha auspicato una stretta sui derivati e sanzioni per i paesi inadempienti. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta, torniamo all'estero con la situazione in Medio Oriente. Stati Uniti ed Europa devono dare un messaggio molto chiaro agli amici israeliani: non è il momento di porre ostacoli alla pace, ma è il momento di sedersi al tavolo del negoziato come programmato. Le parole sono del ministro degli esteri Franco Frattini, poco prima di partire per la Siria, in una visita che lo vedrà insieme al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Dopo le violenze di ieri la situazione sembra che si sia acquietata, resta tesa quella sul fronte diplomatico, proprio tra Stati Uniti ed Israele, dopo la decisione di Tel Aviv di costruire 1600 nuove unità abitative a Gerusalemme Est. Nella notte, una lunga telefonata che pare che si sia protratta fino alle 2 tra il vicepresidente americano Biden e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Ci colleghiamo in diretta con l'inviato del Sole 24 Ore ed esperto di questioni medio orientali, Ugo Tramballi. Buongiorno Ugo. Buongiorno. Allora, come valuti, Ugo, questo nuovo atteggiamento americano e l'atteggiamento del governo israeliano? È molto semplice, ci sono due interessi contrastanti che erano molto noti da tempo ma che adesso sono giunti al pettine, cioè l'amministrazione americana, sia per il processo di pace israelo-palestinese sia per i suoi interessi nella regione, ha stabilito che bisogna riprendere il dialogo di pace fra israeliani e palestinesi, ma questo contrasta con un principio e soprattutto con un'aspirazione ideologica della destra israeliana, che è quella di non cedere territori occupati e ancora meno soprattutto Gerusalemme, perché per gli israeliani, non solo per la destra, con questo governo di destra, ma per tutti i governi israeliani, Gerusalemme non è divisibile ma resta e deve restare la città indivisibile, solo capitale dello Stato di Israele, mentre invece per i palestinesi Gerusalemme deve essere divisa in due parti, una occidentale capitale di Israele e una orientale capitale dello Stato palestinese quando mai nascerà. Grazie dunque ad Ugo Tramballi per questi chiarimenti, situazione naturalmente in evoluzione e che continueremo a seguire. Restiamo all'estero e ci spostiamo però in Cina per parlare di Pechino, che ha la sua calciopoli. Era soprannominato Fischietto d'Oro e considerato la punta di diamante del mondo arbitrale cinese. Adesso anche lui è implicato nello scandalo che sta scuotendo il calcio del paese del dragone fin dalle fondamenta. Lu Jun, arbitro nella finale dei mondiali 2002, è stato arrestato assieme a due colleghi con l'accusa di corruzione e, in base alla somma di denaro che avrebbe ottenuto illegalmente, rischia una condanna che va dalla sanzione amministrativa alla pena di morte. Quello di Lu Jun è solo l'ultimo capitolo della calciopoli cinese, uno scandalo che ha coinvolto centinaia tra calciatori, dirigenti e arbitri, tutti colpevoli di avere truccato i campionati dal 2006 al 2009 per alimentare un gigantesco giro di scommesse clandestine. Persino i posti in nazionale erano in vendita e nel corso delle indagini sono state ascoltate numerose prostitute incaricate di ammorbidire gli arbitri in vista degli incontri. Adesso è a rischio la stessa esistenza del campionato cinese che, secondo le dichiarazioni del nuovo presidente della Lega, Wei Dei, potrebbe essere sospeso per un anno sabbatico necessario a fare pulizia. Antonio Talia, GR24, Il Sole 24 Ore, Pechino. Il calcio giocato adesso è quello europeo, con l'Inter che passa il turno, mentre questa sera si completa il quadro per i quarti. Il San questa mattina l'ha chiamato Special One, chiedendosi se davvero Abramovic abbia fatto un affare a cacciarlo 2 anni e mezzo fa. Domanda retorica, Mourinho ha stravinto il confronto con Ancelotti e ha dato ragione a Moratti, che l'ha voluto, strapagato proprio per dare all'Inter la mentalità europea sin qui mancata e che si è schierato dalla sua parte sempre, anche nelle bufere contro gli arbitri in Italia e nella gestione di casi spinosi come quello di Balotelli, scaricato ieri in Mondovisione anche da Materazzi e ora da recuperare perché così vuole per primo lo stesso Moratti. Mourinho esce ingigantito dalla notte di Stamford Bridge. Oggi ha dato ai suoi una giornata di riposo per godersi il trionfo prima di tuffarsi sulla trasferta di Palermo. Questa sera si siederà in poltrona per scoprire i nomi delle ultime due qualificate ai quarti. Barcellona e Bordeaux le favorite su Stoccarda e Olympiacos. Venerdì il sorteggio, a occhio da evitare proprio spagnoli e francesi oltre al Manchester. Ma da ieri sera la nuova Inter di Mu ha un po' meno paura di viaggiare in Europa. Giovanni Capuano, GR24, Il Sole 24 Ore. Terza medaglia e terzo bronzo per l'Italia alle Paralimpiadi Invernali di Vancouver, il secondo conquistato da Gianmaria Dal Maestro in questi giochi, stavolta nello slalom gigante. Lo sciatore vicentino aveva già vinto il bronzo nello speciale. 180 opere che rivelano come l'opera di Goya sia stato un punto di riferimento per vari movimenti artistici. Si apre oggi e fino al 27 giugno a Milano, Palazzo Reale, la mostra intitolata Goya e il mondo moderno. È dunque l'artista spagnolo da considerare il primo dei moderni, Claudio Strinati, al microfono di Adriana Fracchia. Il primo dei moderni nel senso che è il primo artista, forse nella storia dell'arte occidentale perlomeno, che mette al centro della sua arte, diciamo, quei concetti come il brutto, il terrore, la guerra, la morte, la disperazione, cioè fatti che sono segnati con un segno negativo, voglio dire, nella coscienza civile, e che è il primo che mette al centro dell'opera d'arte questi grandi temi, quindi abbandona completamente l'edonismo, la ricerca della bellezza fine a se stessa e così via, che fino alla sua giovinezza erano stati, diciamo così, la base, il fondamento dell'arte. Tutti i grandi artisti avevano marciato in quella direzione. Ecco, quindi in questo senso è vero che è un po' un moderno tra i primi. Ha influenzato sì moltissimo, ma non nell'immediato, questa è una cosa interessante, cioè a una notevole distanza di tempo, a dire il vero, dalla scomparsa del maestro, è stato capito e assimilato da molti artisti che noi oggi chiamiamo moderni, come gli espressionisti tedeschi, Picasso, ecco, per citare due momenti fondamentali della storia dell'arte moderna. Come ogni anno, anche quest'anno il Sole 24 Ore e il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro organizzano Forum Lavoro. Gli esperti del quotidiano della Fondazione Studi dei Consulenti si confrontano oggi con i tecnici del Ministero del Lavoro, dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate. È necessario riprendere a lavorare in un clima che non sia quello avvelenato che ha caratterizzato gli ultimi giorni. Quando si sente questo linguaggio viene la voglia di non subire questo tipo di pressioni di carattere conservativo. Quanto agli interventi a sostegno del reddito, gli strumenti per gli ammortizzatori sociali che abbiamo attivato non possono che essere per la disoccupazione straordinaria. Replica alle accuse dei sindacati dell'opposizione il ministro del welfare Maurizio Sacconi, intervenuto alla quarta edizione del Forum Lavoro in corso a Roma e organizzato bocciato dal Sole 24 Ore dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro. Il ricorso all'arbitrato in alternativa al giudice del lavoro per la soluzione delle controversie su licenziamenti, ferie, orario e sicurezza resta al centro del suo intervento nella giornata dedicata a illustrare tutte le novità del settore lavoro per i professionisti specializzati. Elevato il numero di contatti nella teleconferenza seguita in streaming video sul sito www.ilsole24ore.com/forum-lavoro, nonostante qualche problema iniziale di audio, e record di presenze anche nelle 70 sedi collegate. Durante i lavori, inoltre, gli esperti del Sole 24 Ore e della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro stanno fornendo le risposte alle domande dei professionisti. Laura Cavestri, GR24, Il Sole 24 Ore. Un ultimo aggiornamento prima di chiudere: l'azione legale intentata da Margherita Agnelli contro la mamma Marella, Gianluigi Gabetti, Sigrid Maronek, Franzo Grande e Stevens per l'eredità dell'avvocato Agnelli è stata respinta. È notizia di poco fa. Maggiori dettagli nel GR delle 14. È tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia, coordinata da Daniele Biacchesi e con in regia Pietro Lacorte. Buona giornata. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.